La scuola di Perry. Venne marzo, coi suoi venti impetuosi. Un giovedì Laura arrivò da scuola senza fiato, non solo per il vento che toglieva il respiro, ma anche perché aveva una grande novità da raccontare. Ma anche papà aveva una novità. Ce la faresti a essere pronta per traslocare in campagna questa settimana, Caroline? Questa settimana? Esclamò mamma stupita. Il distretto scolastico ha deciso di costruire una nuova scuola sulla concessione di Perry, che confina con la nostra a sud, disse papà. Dal vicinato verrebbero tutti a dare una mano a tirarla su, ma vorrebbero assumermi come direttore dei lavori e sarebbe bene che ci trasferissimo prima che io cominci. Se ce la facciamo in settimana abbiamo tutto il tempo di completare la costruzione per il 1° di aprile. Possiamo andare il giorno che vuoi, Charles, rispose mamma. Dopodomani allora, disse papà. E c'è un'altra cosa. Perry dice che vogliono assumere Laura come maestra. Che ne dici, Laura? Dovrai prendere un'altra licenza. Oh, certo che sarebbe un lusso avere una scuola così vicina a casa, disse Laura. Poi raccontò la sua novità. Domani ci sono gli esami per il diploma di insegnamento, lo ha detto il signor Owen. Si tengono a scuola, perciò non avremo lezione. Spero proprio di farcela prendere il diploma di secondo livello. Oh, lo prendi di sicuro, disse Carrie convinta. Sai sempre tutto alla perfezione. Laura non era altrettanto sicura. Non ho tempo di riguardare niente, figurarsi e studiare altro. Per passare devo fare affidamento su quello che so già. È la cosa migliore, Laura, disse mamma. Se ti mettessi a studiare in fretta e furia faresti solo una gran confusione. Se ottieni il diploma di secondo livello saremo tutti contenti. E se è solo quello di terzo livello saremo contenti lo stesso. Farò il possibile, disse Laura soltanto. Il giorno dopo uscì da sola, con un po' di ansia per andare a sostenere l'esame. L'aula non pareva più la stessa, ora che c'erano solo alcuni sconosciuti seduti qui e là nei banchi, di solito tanto affollati. Alla cattedra, invece, del signor Owen era seduto il signor Williams. Le domande erano già scritte sulla lavagna. Per tutta la mattinata non si sentì altro che il fruscio dei fogli e il graffiare delle penne. Al termine di ogni ora, il signor Williams raccoglieva il loro lavoro, che avessero finito o no, e mentre i candidati passavano alla domanda successiva, lui valutava le prove raccolte. Laura era soddisfatta perché era riuscita a finire sempre tutto a tempo. Quel pomeriggio il signor Williams le porse il diploma con un gran sorriso e Laura capì, ancora prima di vederci scritto sopra, diploma di secondo livello. Tornò a casa correndo, danzando, ridendo di gioia, porse il diploma a mamma e la vide illuminarsi tutta. Cosa ti avevo detto? Lo sapevo, esclamò Carrie, gongolante. Non dubitavo che passassi, disse mamma, purché non ti lasciassi spaventare dal fatto che era il tuo primo esame pubblico in mezzo a sconosciuti. Adesso ti darò l'altra buona notizia, sorrise papà. L'ho tenuta di riserva come ricompensa per la riuscita dell'esame. Perry dice che ti daranno $25 al mese per i 3 mesi di aprile, maggio e giugno. Laura sgranò gli occhi. Oh! Esclamò. E poi, non immaginavo! Caspita, pa, vuol dire più di $1 al giorno! Gli occhi azzurri di Grace erano spalancati dallo stupore e con grandissima serietà annunciò: Laura diventerà ricca! Scoppiarono tutti a ridere così forte che anche Grace rise, senza sapere perché. Poi papà disse: Bene, non resta che trasferirci in campagna e costruire la scuola. L'ultima settimana di marzo, dunque, Laura e Carrie andarono a scuola, partendo la mattina presto a piedi dalla loro concessione, nonostante il gran vento. L'aria era già primaverile. Ogni sera, tornando a casa, constatavano che la costruzione della nuova scuola progrediva rapidamente. La si vedeva levarsi in mezzo alla prateria, laggiù verso sud. Negli ultimi giorni di marzo i ragazzi Perry la dipinsero tutta di bianco. Era la scuola più piccola e graziosa che si fosse mai vista, bianca come la neve in mezzo al verde. Le finestre scintillavano al sole del mattino, il giorno in cui Laura ci arrivò per la prima volta, attraversando la prateria, dove l'erba nuova formava già un fitto tappeto verde. Accanto ai gradini, dove aveva posato con cura il suo sussidiario di prima, c'era il piccolo Clyde Perry di 7 anni. Le mise in mano la chiave della porta, dicendo solennemente: Mio papà ha detto di darle questa. La scuola era linda e graziosa anche dentro. Le pareti di tavole nuove profumavano di fresco e di pulito. Dalle finestre rivolte a oriente entravano fiotti di sole. Sulla parete in fondo c'era una grande lavagna nuova e davanti alla lavagna era sistemata la cattedra per la maestra. Un tavolo nuovo di zecca che alla luce del sole splendeva di un caldo color miele. Sul piano era posato il grosso tomo del dizionario Webster. Davanti alla cattedra c'erano tre file di banchi nuovi, anche quelli finiti con la stessa vernice color miele della cattedra. Le due file esterne arrivavano contro le pareti laterali e in mezzo restava giusto lo spazio per la fila centrale e i due brevi corridoi. In ogni fila c'erano quattro posti. Laura si fermò qualche istante sulla soglia ad ammirare quella piccola aula così linda e accogliente. Poi posò il secchiello del pranzo sotto la cattedra e appese la cuffia a un chiodo infisso nella parete. Accanto al dizionario c'era un orologio. Le lancette segnavano le 9. Doveva essere stato caricato la sera prima. Guardandosi intorno, Laura pensò che non ci poteva essere nulla di più completo e perfetto di quella sua piccola scuola. Da fuori giunsero voci di bambini. Uscì a chiamarli. Con Clyde entrarono un bambino e una bambina che dissero di chiamarsi Johnson. Erano tutti e due in seconda. La classe era tutta lì. Nei 3 mesi in cui Laura ci insegnò, non comparvero altri scolari. Con 3 bambini soltanto a Laura non sembrava di meritare $25 al mese, ma quando lo disse in casa, papà dichiarò che 3 bambini avevano lo stesso diritto di ricevere un'istruzione di 10 bambini e che lei aveva il diritto di essere pagata per il tempo che passava a dargliela. Ma pa, disse Laura, sono $25 al mese. Non preoccuparti, rispose lui, sono ben contenti di darti quella cifra. Le scuole più numerose oggi pagano $30. Doveva essere vero se lo diceva papà. Laura si tranquillizzò decidendo di dedicare quanta più attenzione possibile a ognuno dei suoi 3 piccoli scolari. Erano bambini svegli e imparavano in fretta. Oltre a leggere e a scrivere, insegnò loro a fare le addizioni e le sottrazioni. Era fiera dei loro costanti progressi. Non era mai stata felice come quella primavera. La mattina, quando l'aria era ancora fresca della notte, andava a scuola. Era una passeggiata gradevole che la portava oltre la conca delle viole, dove l'aria era tutta un profumo. Anche i suoi 3 scolari erano felici. Erano bambini di buon carattere, diligenti e volenterosi. Avevano anche loro a cuore quella scuola così nuova e pulita e badavano a non sporcare e a non macchiare nulla. Laura portava a scuola i suoi libri e tra un'interrogazione e l'altra, quando i bambini studiavano nel loro banco, anche lei studiava alla cattedra con l'aiuto del grande dizionario. Durante gli intervalli e nella lunga pausa pranzo, quando i bambini uscivano a giocare, lavorava all'uncinetto e intanto vedeva le ombre delle nuvole rincorrersi sulla prateria, dove cantavano le sturnelle e i piccoli citelli correvano qua e là tutti indaffarati. Finita la giornata, tornava a casa passando di nuovo accanto alla conca delle viole. A volte, il sabato, andava fino alla concessione del reverendo Brown. Era una passeggiata di 1,5 miglio attraverso la prateria in direzione ovest e poi, con Aida, facevano un altro pezzo di strada per salire in cima alla collinetta che sorgeva poco più in là della casa. Da lassù si vedevano le Washington Hills a 60 miglia di distanza. Sembravano una nuvola azzurra posata sull'orizzonte. Sono così belle che mi viene una gran voglia di andarci, disse Laura un giorno. Ma non so, poi arrivi là e non sono altro che colline qualunque, coperte di comunissima erba come questa, disse Aida, dando un calcio a una zolla dove il verde della primavera occhieggiava tra il seccume dell'anno prima. In un certo senso aveva ragione, ma in un altro no. Laura non sapeva spiegarlo, ma per lei le Washington Hills non erano solo colline coperte d'erba. Il loro lontano profilo azzurro l'attirava con il fascino dei luoghi remoti, era l'essenza di un sogno. Tornando a casa nel pomeriggio, Laura ripensava a quelle lontane colline, alla vaga ombra azzurra che disegnavano contro il cielo laggiù, oltre la vasta distesa della prateria verde e ondulata. Avrebbe voluto andare fin là, attraversare tutto quello spazio per vedere cosa c'era ancora oltre. Era lo stesso sentimento, lo sapeva, che provava papà quando pensava all'ovest, e sapeva che, come lui, anche lei doveva stare lì dove stava ed esserne contenta, aiutare in casa e insegnare a scuola. Quella sera, Papà chiese che cosa aveva intenzione di fare coi soldi che avrebbe guadagnato in quei 3 mesi. Ma li darò a te e a mamma, naturalmente, disse Laura. Ti dico cosa ho pensato. Sarebbe bello avere un organo, così quando viene a casa Mary può continuare a studiare musica come all'università senza perdere l'esercizio. E sarebbe una bella cosa anche per voi ragazze. C'è una famiglia in paese che ha deciso di vendere tutto e tornarsene all'est. Hanno un organo, lo venderebbero per $100. È in buono stato, l'ho visto. Se tu ci metti lo stipendio della scuola, gli altri $25 ce li aggiungo io e poi costruisco un'altra stanza qui, così avremo il posto dove metterlo. Oh, certo, sarebbe bellissimo avere un organo, disse Laura, ma non avrò quei $75 fino alla fine dei 3 mesi di scuola. Laura, intervenne mamma, dovresti anche pensare al tuo guardaroba. Gli abiti che hai vanno bene per la scuola, ma hai bisogno di un nuovo vestito buono per l'estate. Quello di Battista di 2 anni fa non si può più allungare. Lo so, però un organo, rispose Laura. Forse potrei tornare a lavorare dalla signorina Bell e guadagnarmi i vestiti così. Il problema è che ora i soldi della scuola non li ho ancora. Ma li avrai, disse papà. Sei sicura che vuoi usarli per l'organo? Oh, sicurissima, disse Laura. Non potrei spenderli meglio che per un organo che Mary possa suonare quando torna a casa. Allora è deciso, disse papà. I $25 di acconto ci sono. Il resto sulla fiducia. Glieli darai quando li avrai. Mi faccio garante io. Perbacco, mi sento in vena di festeggiare. Vai a prendere il violino, scricciolo. Faremo un po' di musica anche senza l'organo. Era l'ora dolce del crepuscolo. Papà cominciò a suonare e a cantare allegramente. Canto la sedicenne timida e ritrosa e la matrona saggia e prosperosa. Canto la principessa che vuole apparire e la massaia che sa risparmiare. Canto la fanciulla dalle guance di rosa e la zitella che le ha secche e avvizzite. Canto la bella con 2 occhi da incanto e quella che orba e che ne ha uno soltanto. Poi l'umore mutò. E così anche la musica del violino. E cantarono tutti insieme. Vado giù al sud a trovare la Sally, tra la lera da mane a sera. E la Sally, ragazzi, che tipo tosto, tra la lero, m'ha fatto nero. Allora le faccio, mia bella, addio. In Louisiana me ne vado anch'io. Vado a trovare la Maria Giovanna, tra la lera, che è alta una spanna. Scendeva la notte. La vasta pianura si appiattiva nel buio e su, nel cielo ancora chiaro, cominciavano a brillare le stelle, grandi e vicine. E il violino se ne andava per una sua canzone vagabonda. Poi papà disse: «E ora, questa è per voi, ragazze!» E prese ad accompagnare la musica dolcemente col canto. Se ne vanno gli anni d'oro, anni sereni di felicità, se ne vanno sulle ali del tempo, anni d'oro di libertà. E mentre vanno li puoi fermare, tutti i ricordi puoi trattenere, ma se volano via lasciali andare, gli anni d'oro di felicità. Le note si spandevano nella mite notte di primavera e svanivano sotto le stelle, e il cuore di Laura era gonfio di nostalgia. Il Popelin Castagna. Ora che mamma aveva accennato ai suoi abiti, Laura si rese conto che doveva occuparsene. Un sabato mattina dunque andò di buon'ora in paese. «Altro che se mi serve il tuo aiuto», disse la signorina Bell. «Divento matta a tener dietro al lavoro che ho, con tutti i nuovi arrivati che ci sono in paese. Ma credevo che fossi impegnata con la scuola». «Sì, ma non il sabato», disse Laura ridendo, «e a partire da luglio posso lavorare anche tutta la settimana». Così, tutti i sabati andava a cucire dalla signorina Bell. E prima della fine della scuola riuscì a comperarsi un taglio abbondante di un elegante popelin color castagna che veniva direttamente da Chicago. Ora, tutte le sere, tornando a casa, trovava qualche novità perché con quella bella stoffa mamma le stava facendo un abito nuovo e papà aveva cominciato a costruire la stanza per l'organo. La stanza era sul lato est della casa, aveva la porta rivolta a nord verso il paese e 2 finestre che davano a sud e a est. Sotto la finestra a sud c'era un basso sedile di legno abbastanza largo perché ci potesse dormire una persona, così ora avevano un letto in più. Una sera, tornando a casa, Laura trovò la stanza finita. Papà ci aveva già portato l'organo che aveva sistemato contro la parete nord, accanto alla porta. Era un bello strumento di noce, con la cassa così alta che il suo tettuccio sporgente arrivava quasi a toccare il soffitto. Nel legno della cassa erano inseriti tre piccoli, graziosissimi specchi di vetro spesso, e ai due lati del leggio c'era un solido ripiano per poggiarci un lume. Il leggio era di legno intagliato a volute e foderato sul retro di panno rosso. Aveva una cerniera che permetteva di sollevarlo e dietro si apriva una nicchia per gli spartiti. Sotto il leggio il lungo coperchio copriva la fila dei tasti bianchi e neri. Quando si suonava lo si poteva ripiegare dentro lo strumento. E sopra i tasti c'era una fila di levette con scritto sopra tremolo, forte e altre parole. Se le tiravi in fuori cambiava il tono dell'organo. Sotto la tastiera c'erano due leve ripiegate contro la parete dello strumento che si aprivano in fuori, in modo che la musicista potesse muoverle con le ginocchia. In quel caso la musica diventava più forte. Poco sopra il livello del pavimento c'erano due pedali inclinati rivestiti di tessuto robusto che si premevano a turno coi piedi per pompare l'aria nelle canne. Con l'organo era arrivato anche uno sgabello di noce, con la seduta circolare e quattro piedini ricurvi. Grace ne era talmente entusiasta che non lasciò a Laura quasi neppure il tempo di entrare. «Guarda, Laura, guarda qui!» disse sedendosi sullo sgabello e facendolo ruotare. La seduta era montata su una vite, sicché con quel movimento rotatorio lo sgabello si alzava e si abbassava. «Questa non è più una baracca di campagna», disse mamma, «ma una vera e propria casa con ben quattro stanze». Aveva appeso alle finestre tendine di mussola bianca con un bordo di merletto lavorato a maglia e trasferito lo scaffaletto triangolare nell'angolo vicino alla finestra a sud. Sulla parete a est faceva bella mostra di sé la pastorella di porcellana nella sua nicchia di legno intagliato. Le due sedie a dondolo erano accanto alla finestra che guardava a est e sul sedile, sotto l'altra finestra, c'era una fila di cuscini colorati. «Che stanza gradevole per cucire», disse mamma guardandosi intorno con un sorriso soddisfatto. «Ora vedrò di finire il tuo vestito, Laura. Forse lo avrai già per domenica». «Oh, non c'è fretta», disse Laura. «Non voglio metterlo finché non ho anche il cappello nuovo. Me lo sta facendo la signorina Bell, proprio il modello che ho scelto io, ma devo lavorare altri due sabati per pagarlo». «Allora, che te ne pare del tuo organo, Laura?» disse papà tornando dalla stalla. Nell'altra stanza, che ora serviva solo da cucina, Carrie stava filtrando il latte. «Oh, signore Grace!» esclamò mamma in quel momento mentre Grace e lo sgabello rovinavano a terra. Grace si tirò subito su a sedere, troppo spaventata anche per strillare. Laura guardava con orrore lo sgabello spaccato in due, ma papà scoppiò a ridere. «Non è successo nulla, Grace. A furia di girare l'hai svitato del tutto, ma d'ora in poi», aggiunse severamente, «starai alla larga da questo sgabello». «Sì, pa», disse Grace cercando di alzarsi. Era ancora un po' stordita. Laura l'aiutò a mettersi in piedi tenendola ferma un momento e finalmente riuscì a elogiare l'organo anche lei. Non vedeva l'ora che Mary venisse a casa. Che belle serate musicali avrebbero avuto allora, con Mary che suonava l'organo e papà il violino. A cena mamma ripeté che quella non era più una semplice baracca su un terreno in concessione. Com'era spaziosa ora la cucina, con dentro solo la stufa, l'armadio, il tavolo e le sedie. «Tra 2 anni non sarà nemmeno più un terreno in concessione», disse papà. «Ancora 18 mesi e lo avrò riscattato. Allora sarà terra di nostra proprietà». «Sì, Charles, lo so», disse mamma. «Sarà un bel giorno quello in cui firmerai l'atto. A maggior ragione, dunque, questa possiamo chiamarla davvero casa. E l'anno prossimo, se le cose vanno bene, faccio il rivestimento delle pareti esterne e do la tinta», disse papà. Il sabato successivo Laura tornò a casa la sera con il suo cappello nuovo ben avvolto in un foglio di carta velina per difenderlo dalla polvere della strada. «La signorina Bella ha detto di portarmelo via prima che compaia qualcuno che vuole comprarlo. Dice che è lo stesso se il lavoro per pagarlo lo faccio dopo». «Allora puoi metterlo domani per andare in chiesa», disse mamma, «perché anch'io ho finito». Il nuovo vestito, stirato di fresco, era posato sul letto di Laura. «Oh, facci vedere anche il cappello», disse Carrie quando ebbero ammirato il vestito. Ma Laura non volle tirarlo fuori. «Non ora», disse, «voglio che lo vediate indossato col vestito nuovo». L'indomani si alzarono di buon'ora per avere il tempo di prepararsi per andare in chiesa. Era una bella mattina, limpida e fresca, le sturnelle cantavano e il sole piano piano asciugava la rugiada. Vestita di tutto punto, con l'abito inamidato della domenica e i fiocchi alle trecce, Carrie si era seduta sul letto a guardare Laura vestirsi. «Che bei capelli hai!» disse mentre lei se li spazzolava vigorosamente nel sole che entrava dalla finestra. «Beh, ma non sono d'oro come quelli di Mary», rispose Laura. Però era vero, aveva capelli sottili ma folti e così lunghi che sciolti le arrivavano sotto le ginocchia. Quando furono soffici come seta, li tirò bene indietro, fece le trecce e se le appuntò in una morbida massa sulla nuca. Poi, con cura, si tirò sulla fronte i riccioli della frangia, mise le calze di pizzo bianco lavorato a ferri e si abbottonò gli stivaletti neri che aveva lucidato la sera prima. Poi, sopra la prima sottoveste, indossò la crinolina. Era di un tipo nuovo che andava di gran moda all'est. La sua era una delle prime che si erano viste nella bottega della signorina Bell. Quel tipo le piaceva perché sul davanti, invece dei cerchi rigidi di ferro, aveva una serie di cinghie di tela che arrivava fin quasi alle ginocchia, di modo che le gonne cadevano diritte. Le cinghie servivano anche a dare stabilità alla struttura, a semicerchio posteriore, che era regolabile in ampiezza con due cinghie a fibbia cucite ai lati. Se le agganciavi dietro, sotto i cerchi, la crinolina restava più o meno ampia, a seconda di quanto tiravi la fibbia. Se invece le agganciavi sul davanti, la struttura dietro si abbassava e l'abito assumeva una forma meno ampia e più tondeggiante. Laura lo preferiva così perché era più comodo e agile. Sopra la crinolina abbottonò la sua sottoveste migliore e sopra la crinolina e le due sottovesti inamidate indossò la sottogonna di batista color castagna del vestito nuovo. Era stretta in vita, ma appena sotto si allargava in modo da adattarsi all'ampiezza dei cerchi. In fondo finiva con una ricca balza alta quasi due spanne di poplin orlata da un semplice nastrino di seta dello stesso colore. Poi, sopra la sottogonna e la camiciola inamidata che copriva il corsetto, infilò l'abito che era tagliato alla polonese. Le maniche, che calzavano alla perfezione, arrivavano fino ai polsi ed erano anch'esse finite da un nastrino di seta intinta. Lo stesso nastro di seta chiudeva lo scollo alto. Il corpino, ben aderente al busto, si allacciava con una fila di bottoncini rotondi rivestiti di seta. Sotto i fianchi l'abito si allargava e si increspava in un panneggio che scendeva dietro fino a coprire l'orlo superiore della balza della sottogonna. Gonna e corpino della polonese erano finiti con una fascia della stessa seta che chiudeva lo scollo e i polsini. Attorno allo scollo Laura mise un nastro di seta azzurra alto 4 dita, fermandolo sotto la gola con la spilla con la perla che le aveva dato mamma. I capi scendevano liberamente sul davanti. Quando finalmente liberò il cappello nuovo dalla carta che lo avvolgeva, Carrie mandò un breve sospiro di ammirazione. Ah, era un cappello di paglia intrecciata color salvia a foggia di cuffia che le copriva completamente la testa e le incorniciava il volto con la tesa rigida, leggermente appuntita verso l'alto. Era foderato di crespo di seta azzurro e tenuto fermo da un largo nastro di seta dello stesso colore che si annodava sotto l'orecchio sinistro. Fodera, fiocco e nastro al collo erano dell'azzurro esatto dei suoi occhi. Papà, mamma e Grace erano già pronti quando Laura uscì dalla sua camera con Carrie al seguito. Papà la esaminò dal colmo del cappello fino alla punta delle scarpe che sbucavano sotto la balza dell'abito. Poi commentò: «Il proverbio dice che con le piume colorate qualunque uccello diventa bello, ma io dico che se non è bella chi la porta, nessuna piuma fa figura». Laura fu così lieta di quel commento che non riuscì a dire nulla. «Stai proprio bene», disse mamma, «ma non dimenticare che bellezza è agire bene». «Sì, ma», disse Laura. «Che buffo quel cappello!» disse Grace. «Non è un cappello, è una cuffia di paglia!» le spiegò Laura. E Carrie disse: «Quando sarò una signorina voglio comprarmi anch'io un vestito così col mio lavoro!» «Il tuo sarà molto più bello!» rispose subito Laura. Ma la battuta di Carrie l'aveva sconcertata. Non aveva mai pensato di essere una signorina. Sì, certo lo era, portava le trecce raccolte sulla nuca e le gonne che arrivavano a sfiorare terra, ma non era sicura che l'idea le piacesse. «Su», disse papà, «i cavalli sono lì che aspettano, non vorrete fare tardi in chiesa?» La giornata era così bella e piena di sole che Laura Non aveva nessuna voglia di starsene seduta al chiuso ad ascoltare il sermone del reverendo Brown, che quel giorno le parve ancora più noioso del solito. Fuori dalle finestre si stendeva fino all'orizzonte il tenero verde dell'erba nuova e la brezza che entrava a sfiorarle le guance sembrava volesse chiamarla all'aperto. Era una di quelle giornate in cui vorresti altro oltre andare in chiesa e tornare a casa. Mamma Carrie e Grace si cambiarono subito d'abito, ma Laura chiese: Posso tenere il vestito, ma se ci metto sopra il grembiule grande e sto attenta? Ah, se ti fa piacere, disse mamma, non c'è motivo perché debba sciuparsi se fai attenzione. Quando ebbero pranzato e rigovernato, Laura uscì. Aveva addosso una strana inquietudine. Il cielo era così azzurro, i grandi cumuli di nuvole così chiari e luminosi, e fin dove correva lo sguardo la terra era tutta verde. I pioppi che papà aveva piantato attorno alla casa, quando erano poco più che virgulti, stavano diventando alberi. Ormai, coi loro rami sottili e le foglie fruscianti, erano alti il doppio di lei. Facevano un'ombra picchiettata di sole lì dove si era fermata a guardarsi attorno in quella giornata così dolce e così vuota. Quando si voltò verso nord, dove era il paese, vide un calesse sbucare in velocità da dietro la stalla di Pearson. E imboccare la strada che veniva verso Big Slough. Era un calesse nuovo di zecca perché si vedevano le ruote e il tettuccio lampeggiare e scintillare al sole. I due bai trottavano sicuri e veloci. Possibile fossero i puledri che aveva aiutato ad addestrare? Eh sì, erano proprio loro. Quando svoltarono per il tratturo che attraversava la palude, Laura vide che a cassetta c'era il manzo. Vieni a fare un giro in calesse? Chiese, fermando i cavalli accanto a lei. Papà uscì di casa mentre lei rispondeva, come sempre, sì, vengo subito. Si mise il cappello nuovo e avvertì mamma che andava a fare un giro in calesse. Carrie la fermò con gli occhi che scintillavano e alzandosi sulla punta dei piedi le sussurrò: Che fortuna che non ti sei cambiata. È vero, le rispose Laura, e lo pensava davvero. Era contenta di avere quel bel vestito e quella cuffia così graziosa. Al manzo stese con cura la coperta e Laura se la rimboccò bene fin sotto i piedi per proteggere l'abito nuovo dalla polvere. Poi partirono nel sole verso sud, in direzione dei due laghi gemelli, Thompson e Henry. Che te ne pare del calesse nuovo? Chiese al manzo. Era un elegante calesse nero, tutto lucido, con i raggi delle ruote tinti di rosso. Il sedile era spazioso, alle due estremità si levavano, piegati indietro, gli scintillanti bracci neri del tettuccio, che ora era ripiegato alle loro spalle. Il sedile aveva la seduta di pelle e lo schienale imbottito. Laura non era mai salita su un veicolo così lussuoso. È bellissimo, disse, appoggiandosi comodamente contro lo schienale. Non ero mai stata su un calesse col sedile imbottito. Lo schienale qui è meno alto di quelli di legno. Allora, vediamo se possiamo migliorarlo un po', disse al manzo, allungando il braccio sul bordo dello schienale. Non che abbracciasse Laura, ma il braccio le sfiorava le spalle. Laura le scosse, ma il braccio restò dov'era. Lei allora si piegò avanti e dette un colpo alla frusta che era infilata nell'anello apposito fissato al cruscotto, e i puledri sgropparono e partirono di scatto al galoppo. Che peste! Esclamò al manzo, agguantando saldamente le redini e puntando i piedi contro il cruscotto. Gli servivano tutte e due le mani per tenere i puledri. Alla fine riuscì a calmarli e a riportarli al trotto. E se mi scappavano? Chiese indignato. Oh, beh, ne avevano da correre prima che finisse la prateria, rise Laura. E da qui a là non c'è niente contro cui ci si possa schiantare. Sì, ma, cominciò al manzo, poi disse: Sei un tipo indipendente, eh? Eh sì, disse Laura. Fecero un giro lunghissimo quel giorno, fino a Lake Henry, e poi tutto attorno al lago. C'era solo una sottile striscia di terra a separarlo dall'altro lago, il Lake Thompson, così sottile che tra due specchi d'acqua c'era giusto lo spazio per la carrareccia. Ai bordi, sopra il viluppo delle viti selvatiche, crescevano pioppi alti e sottili e pruni robusti. Lì faceva fresco. La brezza soffiava sull'acqua e dietro le piante si vedevano le ondine frangersi contro le rive. Al manzo aveva messo i cavalli al passo e le raccontava che aveva seminato 80 acri a frumento e 30 d'avena. Ho la fattoria e poi una concessione da tenere a Bosco, disse. Cap e io abbiamo fatto anche un bel po' di trasporti di legname, un po' dappertutto nelle campagne qua attorno, dove c'erano da costruire scuole o case. L'ho fatto per avere i soldi per questo calesse. Perché non hai tenuto il vecchio? Chiese Laura. Quello l'ho ceduto in cambio dei puledri l'autunno scorso, disse Almanzo. Tanto per scozzonarli mi bastava la slitta. Ma quando è venuta la primavera ho dovuto riprendere un calesse. Se ce l'avevo venivo a trovarti prima. Mentre parlavano, erano usciti dalla strettoia tra i laghi, avevano girato attorno a Lake Harry e ora stavano tornando verso nord. Ogni tanto vedevano la baracca di un colono. Qualcuno aveva anche la stalla e un campo dissodato intorno. La regione si sta popolando, disse Almanzo, mentre piegavano a ovest lungo la sponda del Silver Lake per tornare alla concessione di papà. Abbiamo fatto solo 40 miglia e avremo visto 6 case. Il sole era basso sull'orizzonte quando l'aiutò a scendere. Se andare in calesse ti piace come andare in slitta, torno a prenderti domenica prossima, disse. Mi piace, sì, rispose Laura. Poi all'improvviso provò imbarazzo. E scappò in casa.